Potrebbe presentarti, per favore? D'accordo. Allora, io mi chiamo Graziella Bernardini e sono abbastanza vecchiotta. Ho 72 anni e ho fatto un sacco di cose nella mia vita. Ho fatto la maestra elementare, poi ho fatto anche la professoressa della scuola media, adesso si chiama secondaria di primo grado, e insegnavo materie letterarie. Dopodiché mi sono messa a studiare e ho anche vinto un concorso, allora era a livello nazionale, quindi sono andata a Roma e sono diventata dirigente scolastica, quella che è la corrispondente della vostra preside, no? Della dirigente. E ho lavorato 30 anni in questo settore come dirigente scolastica, sempre nello stesso paese, alle porte di Milano. Quindi un ambiente completamente diverso da quello che in cui sto vivendo ora. Poi cosa è successo? Sono andata in pensione abbastanza giovane, perché avevo cominciato veramente molto giovane a fare la maestra, e sono, diciamo, venuta in Trentino poiché mio figlio ha preso in gestione un piccolo albergo a Nosellari, e allora ho cambiato mestiere, mi sono messa a fare la cuoca. Perché fare la cuoca è sempre stato, cioè fare la cuoca, cucinare è sempre stato una mia passione, ho sempre cucinato, mi è sempre piaciuto, quindi mi sono interessata molto. Quindi una delle cose della mia vita è veramente il cambiamento. Non ho mai avuto paura di cambiare, no? Io sono nata in Liguria, a Savona, e poi ho fatto un salto e sono andata, quindi Savona è sul mare, vicino a Genova. Poi ho fatto questo salto e sono andata in pianura, alle porte di Milano, in un paese abbastanza grossino, insomma, sui 7.000 abitanti, nel quale ho fatto anche il sindaco. Io per due mandati, quindi per 10 anni, ho gestivo contemporaneamente la funzione amministrativa del comune e quella... e quella scolastica, no? Quindi in questo caso devo proprio dire che avevo in mano un po' il potere. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo un po' riflettere e dobbiamo, sulla quale dobbiamo anche ragionare, perché è una brutta bestia secondo come lo si tratta e lo si guarda. Però nello stesso tempo una mia passione è stata quella di sempre quella di dedicarmi agli altri. Quando facevo il sindaco mi sono sempre dedicata, sempre, per tanto tempo ho lavorato sul discorso dell'inclusione sociale, quindi noi diciamo, ricordatevi che la realtà di Milano, direi, non è questa realtà qua, è ben diversa, no? E l'immigrazione è un dato di fatto molto molto rilevante, quindi io ho lavorato molto istituendo una scuola di italiano per stranieri prima ancora che arrivasse la legge sull'alfabetizzazione degli stranieri, e ho lavorato anche molto sull'inclusione delle donne, quindi avevo messo in piedi una cooperativa di donne che lavoravano, ho fatto fare dei corsi di sartoria, che lavoravano in questo settore, quindi insomma qualche contributo l'ho dato. Dopodiché, come vi ho detto, ho fatto quest'altro salto, quindi mare, pianura, e sono arrivata in montagna. Non mi ha mai spaventato cambiare, perché cambiare è comunque sempre un rinnovarsi, un ritornare a ricominciare da capo. Se a qualcuno fa paura, a me non ha mai fatto paura, quindi essere curiosa della vita è veramente un aspetto che ti fa vivere anche bene, no? Anche se devo dire la mia vita si è sempre svolta molto di corsa. E poi arriviamo al momento in cui sono arrivata qui in montagna, proprio a, diciamo, a seguito di mio figlio. Nel frattempo ero andata in pensione, quindi ho potuto dedicarmi a questa mia passione. Quindi anche il coltivare le passioni penso che sia veramente una cosa importante nella vita di ognuno di noi. E qui ho scoperto un mondo un mondo diverso, un mondo nuovo per me da esplorare. E non mi sono fermata. Questo del movimento è un altro aspetto molto importante per vivere, per sentirsi vivi anche, no? Mi sono dedicata al volontariato e alle attività soprattutto culturali. Mi sono accorta che anche su questo territorio c'è molto bisogno di svegliare la cultura, di far parlare le persone, quindi l'importanza della comunicazione, dell'entrare in circolo. Ho messo in piedi una Proloco che esiste tuttora. Ah, non vi ho detto che è 8 anni che abito sugli altipiani cimbri, abito a Nosellari, e ho costituito insieme con altre persone di Nosellari e non solo, anche di Carbonari, di San Sebastiano, una Proloco che si chiama Proloco Nosellari trattino Oltresommo, proprio per valorizzare tutto quel territorio un po' meno turistico rispetto a Folgaria, che va dall'altra parte del Passo Sommo, no? Fino ad arrivare alla Varone. E con la Proloco abbiamo fatto un sacco di cose. La Proloco si è costituita 5 anni fa, nel 2017. Abbiamo lavorato molto sul creare comunità. Questo secondo me è un altro aspetto fondamentale all'interno di un ambiente. Ecco. Si vive di sogni? Sì, si deve vivere di sogni, nel senso che bisogna rimanere sempre molto, coi piedi per terra, ma la testa può vagare per l'aria e quindi aspirare a delle cose. E nella mia vita ho capito una cosa, che ho sempre fatto dei grandi sogni, ma sono sempre stata consapevole che non li avrei proprio raggiunti del tutto, quindi mi sono anche saputa accontentare della percentuale di traguardi raggiunti. Allora bisogna sempre spostare il cuore avanti, no? Cioè andare avanti pensando che comunque è una meta, no? E non sempre è così possibile, quindi non bisogna demoralizzarsi o comunque demotivarsi, perché è un po' il meccanismo della vita, no? Se uno guarda solo ai propri piedi non va avanti per niente, bisogna guardare un po' più avanti per poter realizzare i propri sogni, quindi bisogna sognare, no? Ma sognare nel senso anche concreto del termine, proprio non sognare così mi piacerebbe avere un ippogrifo sul quale volare, no, assolutamente no, ma sognare una realtà futura, sì, questo è importante per progettare, per poi creare le condizioni perché una parte di questo sogno si possa avverare. Non è facile parlare di futuro. Bisognerebbe riuscire a conciliare quello che è razionale con quello che è l'emotività. Uno sogna, no? Però per poter poi incanalare il sogno in azioni concrete deve far filtrare questo sogno attraverso la ragione. E in questo modo l'ansia cala anche se nel sogno c'è sempre davvero un po' di questa tensione emotiva che non sempre tutti sanno governare, quindi fare un esame di realtà rispetto al sogno che ho. Io appartengo a una famiglia abbastanza semplice, operaia, e ricordiamoci quegli anni erano gli anni caldi della crescita anche sociale del paese e comunque nella mente di una famiglia abbastanza semplice e umile della classe operaia non c'era l'idea dell'andare all'università, del riuscire a fare quello che viene definito il riscatto sociale, no? Infatti mio padre non aveva bene in mente comunque non è che non fosse d'accordo, ma non ci pensava minimamente a farmi frequentare l'università. sono stata io ad insistere perché lui mi aveva trovato già un posto da commessa in un grande magazzino che allora si chiamava Standa, forse vabbè, la Standa. E quindi diciamo c'è stata anche una mia precisa volontà di studiare. Quindi io ho cominciato il mio percorso lavorativo con una diciamo forte convinzione che lo studio è la base di qualsiasi attività e di qualsiasi espressione della propria vita. Occorre una base culturale forte, no? O comunque una preparazione culturale per poi affrontare i vari step della nostra vita. E quali sono state le sue difficoltà? Difficoltà se ne incontrano sempre nella vita, no? Sono difficoltà di vario genere. Diciamo che io mi sono ritrovata anche da sola, perché ero sposata e poi dopo 10 anni di matrimonio mi sono separata, con 2 figli, e di cui il secondo con un problema grave di handicap, e mi sono ritrovata a dover affrontare la vita e una nuova professione quando sono stata nominata dirigente scolastica dei pressi di Milano all'Andriano. Quindi diciamo ci sono state difficoltà di vario genere, di natura economica, di natura di inserimento nel contesto sociale. Poi non ho mai avuto difficoltà di relazione io, e quindi mi sono inserita talmente bene che dopo 10 anni che abitavo in questo paese ne sono diventata sindaco, proprio perché ho sempre diciamo mosso sempre questo aspetto della curiosità, no? Di capire il paese in cui ero, di capire la gente, di cercare di trovare una mia dimensione all'interno di un contesto che in quel caso era nuovo, e quindi questo mi ha aiutato molto a superare le difficoltà, ecco. Esplorare, io ho sempre esplorato le persone, il carattere delle persone, la capacità di rapportarsi con me e io con loro, ecco. Quindi, e poi la conoscenza, quindi io direi l'esplorazione, la conoscenza, il dialogo, e questo diciamo mi ha fatto superare questa interazione che ho sempre avuto con gli altri, e mi ha fatto superare molte difficoltà, e mi ha fatto anche trovare la stima, perché questo è un altro aspetto importantissimo. Se tu sai che l'altro ti stima, cioè che ha fiducia in te, che ti riconosce le tue capacità, insomma uno riesce ad andare avanti meglio nella vita. Come ha inciso il fatto di essere una donna sulle tue scelte di vita? Quali gli stereotipi incontrati? Io non posso dire di avere avuto grossi problemi a livello di essere donna in certe situazioni e comunque imbattermi in stereotipi, e nel momento in cui mi ci sono imbattuta con molta sfrontatezza direi, e anche caparbietà, sono riuscita a combatterli e a destrutturarli proprio, no? Per cui non questo problema mi ha riguardato per aiutare le altre donne. Non a caso quando ero sindaco all'Andriano, in questo paese, sono riuscita attraverso un progetto europeo sulle pari opportunità a aiutare appunto delle donne, soprattutto straniere, in corsi di sartoria e di lavoro di questo genere, che ha permesso anche di far aumentare loro l'autostima, di far crescere le loro competenze e quindi di inserirsi in modo dignitoso all'interno del contesto sociale. Risultati direi che ne ho ottenuti, compatibilmente appunto con i sogni, realizzato determinate cose che possono dire che ho fatto parecchie cose nella mia vita. Anzi, qualcuno mi ha detto: scrivi un libro su queste cose, perché hai veramente fatto tanto e sono sempre in movimento e quindi arrivata anche a questa età le prospettive future non è che ne ho molte, però continuo a lavorare, non mi stanco, quindi faccio la cuoca e poi non vi ho detto anche che nel frattempo, visto che mi sto dedicando molto al discorso agricolo, dell'agricoltura di montagna, sono anche portavoce della comunità Slow Food degli Altipiani Cimbri. Quindi sto lavorando molto sul discorso di far rapportare tra loro i produttori locali e creare veramente una consapevolezza tra di loro del loro valore per quello che producono, del loro valore per il mantenimento del paesaggio della montagna. Qual era il suo sogno quando era una bambina? Non me lo ricordo nel vero senso della parola, però pur essendo sempre stata una bambina, tra virgolette, tranquilla, rispettosa dei canoni che allora esigevano la società di allora, perché era completamente diversa da quella di oggi, forse non ce ne rendiamo conto, anche se non è passato un secolo, però l'autorità paterna vissuta in un certo modo, appunto c'erano questi rigidi comportamenti da parte dei genitori, però nello stesso tempo avendo entrambi i genitori che lavoravano ero un po' già figlia della nuova società, no? Che è uscita dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale, e quindi c'era il discorso del benessere economico, la Lambretta, poi la 600, tutte queste tappe che l'italiano medio, basso medio, ha fatto negli anni 60. E diciamo che i miei sogni sono cambiati, sono cresciuti crescendo nell'età, come vi ho detto, fino ad arrivare alla decisione di frequentare l'università e quindi anche sovvertire i pensieri della famiglia, no? Che pensava invece ad una situazione molto più così piatta di mantenimento nello stato sociale nel quale vivevamo, ecco. C'è un messaggio da dare ai ragazzi? Allora sì, direi che un messaggio lo si può cogliere nell'esempio, nel dire io nonostante tutto ce l'ho fatta, che non si può trovare la pappa fatta, perché molti ragazzi, giovani, un po' se la trovano la pappa fatta e manca quindi lo stimolo della conquista. La vita è una conquista, direi proprio quotidiana, no? Di un passo dopo l'altro, tenendo sempre a mente quel sogno che uno ha, no? Di fare qualcosa che comunque ti riempie la vita, perché poi ci si chiede anche cosa significa vivere, no? Si fanno un po' domande, tra virgolette, filosofiche. Queste riflessioni ti portano poi a dire non demordere, un passo dopo l'altro, concretezza, no? E vai avanti, ecco, quindi il messaggio è proprio questo, no? Vai avanti, comunque, con i piedi per terra e con la testa un po' rivolta al cielo.